peggio del previsto. Il PIL del 2008 è calato dell'1% rispetto all'anno precedente. Il governo aveva ipotizzato un meno 0,6, mai così in basso dal 75. E l'inflazione a febbraio è stabile all'1,6%, secondo la stima preliminare dell'Istat. Cala il prezzo della pasta, meno 1,8% in un mese. Nel frattempo è un brutto lunedì per le borse. Piazza Affari perde oltre il 3%, quasi il 4% in questo momento. Un piano Marshall per la Palestina fra le priorità del G8, lo annuncia Silvio Berlusconi alla conferenza di Sharm el Sheikh. L'Italia offre 100 milioni di dollari per la ricostruzione di Gaza. È stato assolto Tarek Aziz, l'ex vicepremier iracheno, era accusato di aver ordinato il massacro di 42 persone. Ucciso il presidente della Guinea-Bissau, sono stati i militari per vendicarsi della morte del capo di Stato Maggiore avvenuta ieri in un attentato. Quote latte, centinaia di trattori a Gemonio e Arcore. Gli agricoltori protestano contro il decreto Zaia, è una sanatoria per chi ha superato i limiti, dicono. Le stelle Michelin confermano le eccellenze italiane della gastronomia, 5 i ristoranti segnalati nella guida. Una buona giornata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco. E benvenuti a questa nuova edizione del GR Extra Large, che apriamo dunque con l'economia. Con l'economia, con i dati che sono stati diffusi questa mattina dall'Istat, a iniziare dal consuntivo del PIL del 2008, meno 1%, come dicevamo nei titoli, peggio di quanto ipotizzato dall'Istat stesso, e il dato peggiore dal 75. Anna Marino, allora, quali sono questi dati? Sì, il primo è proprio la revisione al ribasso per il prodotto interno lordo del 2008. Come vediamo, il dato preliminare, se secondo l'Istat era già stato qualificato come il peggiore dal 1993, ora siamo ai livelli di oltre 30 anni fa, del 1975. Secondo l'Istat il calo è dell'1% rispetto all'anno precedente, mentre prima l'Istituto aveva previsto un calo dello 0,9%. Dati negativi anche rispetto all'ultima stima ufficiale del governo, quella contenuta nell'aggiornamento del programma di stabilità, che attestava una diminuzione del PIL nel 2008 dello 0,6%. Anche Confindustria aveva rivisto a ribasso le previsioni sul PIL, portandolo a meno 0,6% appunto nel 2008. Peggiora anche nettamente il rapporto deficit-PIL sempre nell'anno scorso. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato del 2,7%, mentre nel 2007 aveva segnato l'1,5%. E c'è anche, diciamo, un dato peggiore per quanto riguarda l'inflazione, ma... Ecco, veniamo allora all'inflazione, perché fino adesso abbiamo parlato del PIL, ma questa mattina l'Istat ha diffuso la stima preliminare per quanto riguarda il mese di febbraio. Certo, anche qui c'è un dato, diciamo, che risulta in stallo, resta stabile l'andamento dell'inflazione a febbraio. Il mese scorso i prezzi al consumo sono aumentati dell'1,6% rispetto a febbraio del 2008 e comunque hanno segnato più o meno la stessa crescita di gennaio, che era stata dell'1,6%, e si è attestato così questo livello sui livelli di agosto del 2007. Comunque i dati definitivi saranno diffusi il 16 marzo. Quello che interessa sono i singoli beni di consumo, il prezzo della pasta, ovviamente di semola, di grano duro, molto al centro dell'attenzione. A febbraio è calato rispetto a gennaio dell'1,8%, invece su base annua l'aumento si è attestato al meno 16,5%. Per quanto riguarda il pane, l'aumento a febbraio è stato dello 0,2% e su base annua questo ha voluto dire un tasso di incremento dei prezzi che è rallentato al 2,3%. Per quanto riguarda invece i carburanti, a febbraio sono aumentati, anche se c'è stato una contraddizione, cioè un rallentamento del calo su base annua. Infatti la benzina verde a febbraio è aumentata rispetto a gennaio del 2,5%, mentre per quanto riguarda il calo dei prezzi si passa al meno 15,6%. Stesso trend è stato registrato per il prezzo del gasolio, un aumento dell'1%, però rispetto a gennaio su base annua la diminuzione dei prezzi è stata di 15,6%. E grazie Anna Marino per questi aggiornamenti. Passiamo alla nostra Deborah Rosciani, perché siamo abituati a cali di borsa in questo periodo, ma forse giornate così, almeno mattinate così, non se ne vedevano da tempo. Deborah. Esatto, probabilmente dobbiamo ritornare indietro di qualche mese, tra settembre e ottobre, quando in realtà le prestazioni erano a ribasso nell'ordine di qualcosa come l'8-9%, 10% al giorno. Oggi siamo a meno 4% per quello che riguarda Piazza Affari, meno 3,5% a Parigi, Francoforte meno 3, Londra meno 4 e 51%. Cosa succede? Non c'è nessuna novità, i temi sono sempre quelli, l'economia che va a picco, basti vedere quello che è successo venerdì scorso a Wall Street con la comunicazione del dato sul prodotto interno lordo, meno 6%, e l'intervento nuovo che l'amministrazione americana deve fare su Citigroup. Oggi sotto i riflettori ci sono i titoli finanziari europei, Commerzbank Bank a Francoforte sta perdendo moltissimo sulla possibilità che la banca debba far ricorso a nuovi fondi dello Stato tedesco per ricapitalizzarsi. Nel Regno Unito HSBC ha annunciato un aumento di capitale da 14 miliardi di euro e il titolo va in picchiata con tutte le banche britanniche. L'S&P MIBA Piazza Affari, sotto i riflettori i titoli bancari naturalmente, con Unicredit che perde il 7%, Intesa San Paolo perde 5,5 punti. Sicuramente pesa anche quello che è accaduto nel fine settimana con il vertice di Bruxelles, che ha bocciato possibili interventi a sostegno delle economie dell'est, dove molte banche sono fortemente esposte. Per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Noi ora andiamo a Baghdad, perché questa mattina c'è stata una sentenza importante, Simone. Sì, una sentenza del Tribunale Speciale Iracheno. Tribunale Speciale che ha assolto l'ex vice primo ministro Tareq Aziz, accusato di aver favorito l'esecuzione di 42 commercianti e uomini d'affari nel 1992. L'analisi e il racconto di Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. L'ultima volta che vidi Tareq Aziz fu nel suo ufficio a Baghdad, alla vigilia della guerra nel 2003. Quel giorno il segretario di Stato americano Colin Powell illustrava in diretta TV dall'ONU il presunto arsenale iracheno di armi di distruzione di massa. Tareq Aziz diede un'occhiata al televisore e continuò a firmare carte sulla scrivania. Poi sollevò lo sguardo e disse: gli americani ci farebbero comunque la guerra anche se consegnassimo fino all'ultimo dei nostri fucili. Braccio destro di Saddam Hussein, di religione cristiana, Tareq Aziz era uno dei volti presentabili del regime. Nell'estremo tentativo di evitare la guerra era stato persino ricevuto in Vaticano da Papa Wojtyła. Crollato Saddam e con lui l'Iraq, ormai malato, Tareq Aziz era finito in carcere con gli altri gerarchi. Oggi il Tribunale Speciale Iracheno lo ha assolto dalle accuse di aver fatto massacrare 40 persone. Non si tratta certo di una riabilitazione, ma è un altro segnale che in Iraq, per arrivare a una pacificazione, in attesa del ritiro americano annunciato dal presidente Obama, servono anche sentenze come questa. E rimanendo in Medio Oriente, oggi a Sharm el-Sheikh, in Egitto, la conferenza internazionale dei donatori. Capi di Stato e di governo di diversi paesi preparano un piano di aiuti per la ricostruzione di Gaza, soprattutto dopo l'operazione israeliana Piombo Fuso, che è stata compiuta fra dicembre e gennaio. E noi ci colleghiamo con Sharm el-Sheikh, dove si trova l'inviato Ugo Tramballi. Ugo, buongiorno, che cosa è stato deciso? Buongiorno, è stato deciso quello che era già stato deciso nei giorni scorsi, cioè quello di non solo di dare 2,8 miliardi di dollari alla ricostruzione non solo di Gaza ma anche dell'economia della Cisgiordania, ma di darne anche di più. Tutti sono pronti a dare qualche cosa e come in linea di massima, come cifra, siamo già arrivati ai 3 miliardi di dollari, oltre 3 miliardi di dollari. Ma il problema non è tanto quello di sborsare dei soldi anche in un'epoca di crisi economica, il problema è di trovare una soluzione politica alla questione palestinese. Su questo infatti oggi qui a Sharm el-Sheikh si è parlato come se Medio Oriente fosse un'altra cosa, come se in Medio Oriente non ci fosse Hamas e come se in Medio Oriente non rischiasse di nascere un governo israeliano di estrema destra. Grazie allora Ugo Tramballi, collegato con noi da Sharm el-Sheikh. A proposito di paesi appunto donatori, Ugo Tramballi citava quasi questa corsa a dare dei soldi per la ricostruzione di Gaza, c'è naturalmente anche l'Italia. L'Italia, con Silvio Berlusconi, che ha detto che il rilancio di un piano Marshall per l'economia palestinese sarà inserito tra le priorità del G8, che al momento è sotto presidenza italiana. Ma il Premier ha parlato anche di aiuti immediati che l'Italia offre per la ricostruzione. Per la sola ricostruzione di Gaza mettiamo a disposizione 100 milioni di dollari come contributo italiano. Ma sarà una gara, io credo, tra tutti i paesi europei per dare il contributo più elevato possibile e per far sì che i tempi di questa ricostruzione siano dei tempi veloci. Naturalmente condivido tutto ciò che il presidente Mubarak e il presidente Sarkozy hanno detto circa la necessità che finalmente questa grave crisi, che si prolunga da 60 anni, possa trovare una soluzione e che il momento è venuto e che possa essere questo l'anno in cui la soluzione arriva alla creazione davvero di quei due stati che convivono insieme, rispettandosi l'un l'altro. E dopo il vertice di Sharm el-Sheikh, Berlusconi nel pomeriggio andrà in Libia per incontrare il presidente Gheddafi. Verrà firmato l'accordo che mette la parola fine al colonialismo, ma c'è anche un'intesa, non certo la prima, per fermare l'arrivo di immigrati che ormai nel 90% dei casi partono appunto dai porti libici. 5 miliardi di euro dall'Italia alla Libia in cambio di un rinnovato impegno nel controllo delle frontiere. Rinnovato impegno, giacché non è il primo accordo che l'Italia stringe con la Libia nella speranza di mettere un freno agli sbarchi di clandestini provenienti dalle coste africane. Ed è questo l'essenziale dell'accordo tra Roma e Tripoli che i due governi sottoscrivono oggi con tanto di cerimonia ufficiale che sancisce la fine del contenzioso sul passato coloniale. Ma vediamo nel dettaglio che cosa darà l'Italia alla Libia. Come detto, 5 miliardi di euro in 20 anni. Le risorse andranno a finanziare infrastrutture sul suolo libico realizzate da imprese italiane e saranno ottenute da una tassa sull'utile dell'ENI, principale operatore nel settore degli idrocarburi. L'Italia inoltre si impegna in altre iniziative, come la costruzione di abitazioni, l'assegnazione di 100 borse di studio, la cura delle vittime delle mine presso istituti italiani, il pagamento delle pensioni di guerra. Non manca la restituzione di manoscritti e reperti archeologici trasferiti in Italia in epoca coloniale. Che cosa ottiene invece il nostro paese dalla Libia? Un fatto simbolico, come il ritorno, con visto turistico sul suolo nordafricano, degli esuli italiani espulsi dalla Libia dopo il colpo di Stato di Gheddafi nel 71. E poi il fatto di sostanza, la collaborazione nel controllo delle frontiere e della criminalità organizzata. Si è reso efficace dalla reale volontà di Tripoli, il nuovo sistema, che sarà finanziato tra l'altro dall'Unione Europea, darà un duro colpo al traffico di clandestini e speriamo che questa sia la volta buona. Alessio Maurizio, GR24, Il Sole 24. È l'edizione numero 100, parliamo della prestigiosa guida gastronomica Michelin, per l'Italia solo conferme. Davide Paolini, nostro gastronauta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, che cosa emerge da questa guida Michelin? Insomma, i premiati sono italiani, sono sempre gli stessi, c'è qualche novità su altri fronti? No, dunque i premiati italiani erano già usciti a novembre, perché la guida Michelin esce in Francia oggi, mentre in Italia esce a novembre, quindi diciamo che l'Italia era già noto. Quello che non era noto era la Francia, c'è un unico 3 stelle in più, ma quello che secondo me è divertente attorno alla guida Michelin, che d'ora in poi il direttore per la Francia della guida Michelin sarà un tedesco, e quindi sicuramente sarà divertente vedere un tedesco che giudica i ristoranti francesi. E vediamo se confermerà il prossimo anno, se tutte queste 3 stelle ci saranno ancora, perché diciamo che il rapporto tra l'Italia e la Francia è veramente incredibile, insomma. Allora, Davide, allora ricordiamoli un attimo quelli italiani. Allora, il sorriso di Soriso, provincia di Novara, le calandre di Sarmeola di Rubano, provincia di Padova, dal pescatore di Canneto sull'Oglio, Mantova, Enoteca Pinchiorri di Firenze, la Pergola, all'ultimo piano dell'hotel Hilton di Roma. Ma il mondo della gastronomia, Davide, in questo momento discute di altro. Si stanno discutendo, sì, Davide, certo, anche di quanto accaduto nel celebre ristorante di Londra, The Fat Duck, considerato uno dei migliori al mondo proprio da questa guida Michelin. Insomma, lo ricordiamo per gli ascoltatori, è stato chiuso temporaneamente sabato per alcuni casi di intossicazione alimentare. Insomma, sì, me l'aspettavo questa cosa. Perché? Devo dire che è sorprendente, è una cosa stupefacente, nel senso che è un locale di un personaggio, tra l'altro di un cuoco davvero straordinario che controlla tutto, che possa essere successo questo. Io ho letto delle illazioni che parlano di sabotaggio del paese, del paesino, diciamo, della vicino a Londra. Una spy story gastronomica. Ma io credo poco a queste cose. È impossibile che gli sia così, sia successo un prodotto che era magari, che aveva dei problemi. Io penso che magari ci siano molti cuochi che oggi usano delle stanze un po' particolari e quindi possono essere a Romi o d'altro. Io vedo in questo magari che gli sia scappata di mano una, come posso dire, una reazione tra diverse composizioni. Una reazione chimica pericolosa. Va bene, grazie Davide Paolini per, diciamo, per queste notizie e per questi commenti. GR Extra Large, queste le notizie della giornata. Il prodotto interno lordo italiano è sceso dell'1% nel 2008, secondo l'Istat è il dato peggiore dal 75. Il rapporto tra deficit e PIL si attesta al 2,7%, sale la pressione fiscale che arriva al 42,8%. E sempre secondo l'Istat l'inflazione è rimasta stabile in febbraio, i prezzi al consumo crescono dell'1,6% contro l'1,2% del resto d'Europa, frenata per il prezzo della pasta, che fa segnare un meno 1,8% rispetto a gennaio, ma su base annua c'è sempre un aumento del 15,5%. Torna a crescere la benzina, più 2,5% nell'ultimo mese. È ancora una giornata molto pesante per le borse europee e mondiali. L'S&P MIB è arrivato a perdere il 4%, sotto di circa il 3% le altre piazze finanziarie europee. L'ex primo ministro iracheno Tareq Aziz è stato assolto dall'accusa di aver ordinato il massacro di 42 persone nel 92. Tre gerarchi iracheni sono stati condannati a morte, fra questi Ali il chimico. Per quest'ultimo si tratta della terza condanna capitale. 100 milioni di dollari per la ricostruzione a Gaza li ha promessi il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a Sharm el Sheikh, dove si è svolta la conferenza dei donatori. Marcia su Arcore di 800 trattori. Sono i produttori di latte organizzati da Confagricoltura e CIA che protestano contro il decreto sulle quote latte. Favorirebbe, sostengono le associazioni, i produttori che hanno sforato i limiti di produzione. Si difende il ministro Zaia, non tollero bugie. Il presidente della Guinea-Bissau è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre cercava di fuggire dalla sua residenza. A togliergli la vita sono stati militari per vendetta dopo l'uccisione del capo di Stato Maggiore. E allora, lo accennavamo nel nostro piccolo GR riepilogativo delle quote latte. Quando si parla di quote latte tornano sempre i trattori in strada. Ne sentivamo gli effetti anche negli aggiornamenti sul traffico e sulla viabilità. Sì, stavolta le ragioni della protesta organizzata da Confagricoltura e da CIA sono diverse. Chi ha portato i trattori a Gemonio ed Arcore, appunto davanti alle case di Bossi e Berlusconi, protesta contro il decreto del ministro delle politiche agricole Zaia, approvato dal governo il 30 gennaio e che il Parlamento si appresta a trasformare in legge. E che prevede? È un decreto che in sostanza distribuisce delle nuove quote alte, più alte che nel più alte che nel passato. In pratica, a questo punto, chi protesta dice: conveniva allora superare i limiti e arricchirsi, tanto ora è arrivata una sorta di sanatoria. Insomma, chi ha rispettato la legge è rimasto gabbato. Iniziamo dalle ragioni della protesta. Il presidente della Confagricoltura, Federico Vecchioni, è intervenuto alla manifestazione di Arcore, ha detto: chi ha rapinato gli interessi del nord e poi è andato a Roma a fare gli interessi di pochi deve essere cacciato via a calci nel sedere, testuali parole di Vecchioni. Così ci ha spiegato questa mattina il perché della protesta. Il decreto proposto dal ministro, a nostro avviso, non risolve l'annoso problema delle quote latte, crea una corsia preferenziale per chi in questi anni non si è attenuto alla legge 119, quindi a quella legge che consentiva di rateizzare e di rientrare nelle regole. Noi siamo dell'avviso che il passaggio al Senato non abbia risolto perché non ha accettato gli emendamenti e che il Presidente del Consiglio debba farsi carico di dare una risposta alla Camera in modo tale che definitivamente venga chiuso questo capitolo, senza creare figli e figliastri, ma dando una risposta seria a chi fino ad oggi ha comprato quote e merita il rispetto. E là c'è la replica naturalmente del ministro Luca Zaia nei confronti di chi protesta. Zaia dice: non è una sanatoria e la protesta degli allevatori è immotivata. E intanto questa mattina, nel corso di 24 Mattino, Alessandro Milan ha sentito l'ex leader dei Cobas del latte, Fabio Rainieri, che oggi tra l'altro è segretario della Commissione Agricoltura della Camera, e lui ha spiegato che il decreto cambierà. No, non è che passerà così. Sono state accolte degli emendamenti in Commissione Agricoltura al Senato che vanno nella direzione che hanno richiesto Coldiretti e altre associazioni e le regioni. Questo per cercare di migliorare quello che è l'impianto del decreto. Però sui numeri bisogna continuare a dire, perché questa è la sostanziale poi verità, che come si ripete, non sono pochi e gli altri hanno pagato le multe. Dei 17.000 che avevano le multe, quelli che sono rimasti, grazie a una compensazione fatta dall'allora ministro Alemanno con la legge 119 del 2003, questa compensazione obbligava coloro che avevano fatto ricorso ai tribunali a pagare tutta la multa dei 17.000. E ora veniamo ad un'altra questione politica, una questione che riguarda il Partito Democratico, ossia la nuova guida affidata a Dario Franceschini, perché molti hanno pensato ad un segretario pro forma, una sorta di segretario pro forma in vista del congresso di ottobre. Non è detto che non sia così, o almeno che non sia un segretario pro tempore, però le prime mosse sembrano far pensare a qualcosa di diverso. Sì, sembra che Franceschini insomma non voglia assolutamente assumere un ruolo di secondo piano. Per esempio, nel fine settimana ha lanciato la proposta di un assegno per i disoccupati, che tanto ha fatto discutere. Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno. Allora, come interpretare queste mosse di Franceschini? Ma intanto diciamo che Franceschini è riuscito a fare qualcosa di importante, cioè di riportare le notizie che riguardano il Partito Democratico sulle pagine dei giornali. come si dice, ha impostato, ha dato il là a un tema politico, ha costretto il centrodestra, il governo a seguirlo, e questo è già qualcosa, non accadeva da alcuni mesi. E poi si può dire che la proposta dell'assegno di disoccupazione non va tanto vista nel merito, su cui naturalmente si discute, c'è un aspetto evidentemente, se vogliamo, anche un po' demagogico, perché non è indicato come reperire le risorse per un'iniziativa del genere, però è una mossa politica, una mossa che dimostra una volontà sia del segretario sia del gruppo dirigente che lo ha espresso. Non dimentichiamo che c'è un gruppo dirigente che è costituito in particolare dagli ex di Essini, D'Alema, Fassino e Bersani, che sostengono questo tentativo di dare una svolta a sinistra, se vogliamo, in chiave socialdemocratica, ma attenta alle questioni sociali del Partito Democratico, che deve pensare soprattutto a evitare le emorragie a sinistra quando si tratterà di votare per le europee e per le amministrative. Quindi, Stefano, non hai anche te l'impressione che a questo punto Franceschini stia veramente tentando di prendere in mano il partito, magari per continuare a tenere il controllo anche dopo ottobre? Sicuramente Franceschini si sta giocando una partita, lo fa con intelligenza, con buon senso, dimostra di essere un uomo con i piedi piantati per terra, ma che conosce anche le regole della politica. Dietro Franceschini c'è un gruppo dirigente, indubbiamente, quello che abbiamo visto in questi giorni, che questo gruppo dirigente del Partito Democratico non si è liquefatto come neve al sole, esiste ancora, sta tentando di passare il capo delle elezioni di primavera senza danni devastanti, e naturalmente a quel punto si vedrà se il Partito Democratico arriverà a ottobre in condizioni discrete, allora Franceschini potrebbe restare in carica, indubbiamente, sempre con l'intesa di questo gruppo dirigente che sta pensando appunto a dare al partito soprattutto un'impronta socialdemocratica, un'impronta un po' più a sinistra, un'impronta capace di tornare a parlare con credibilità di questioni sociali, di questioni economiche. Poi a ottobre può capitare tutto, può capitare che naturalmente Franceschini, ma non come un eroe solitario, ma all'interno di questa cornice, possa restare in carica, certo. Grazie allora Stefano Folli, editorialista del Sole 24 Ore. Noi continuiamo a parlare di politica, ma dal PD ci spostiamo dall'altra parte, dal PDL. Dall'altra parte dello steccato, perché a fine mese, il 20 e 21 marzo, ci sarà il congresso che darà vita al Popolo delle Libertà, un partito di centrodestra che ha molte identità e anime, tra queste anche quella di un personaggio come il senatore Giuseppe Ciarrapico, che in passato ha rivendicato il fascismo come propria identità culturale e che anche per questo non ha lesinato critiche affini. Paolo Piacenza lo ha intervistato e gli ha chiesto quale tema ritiene prioritario per il PDL. Ma il tema più importante è certamente la sicurezza. La sicurezza che, nonostante il buonismo di Fini, è una realtà feroce, perché è feroce il miscuglio etnico che si è verificato in Italia. Ciò non vuol dire fare del razzismo, vuol dire fare del realismo. Questi rumeni, che sono tanti, saranno pure brave persone, però sarà un destino cinico e baro, ma in tutti i più fatti gravi che esistono nella criminalità e nella sicurezza sono loro coinvolti. Allora basterebbe fare una cosa, e credo che questo il governo possa prestarsi, se non si è già prestato, che una volta condannati la condanna se la facciano in carcere a casa loro in Romania. Ecco, da questo punto di vista, su questo tema, la convince la politica delle ronde o dei volontari o preferirebbe un maggior rafforzamento delle forze dell'ordine? Ma sa, ronde, volontari, sono tutte cose che dissimulano un qualcosa che non si ha il coraggio di fare fino in fondo. C'è una giustizia pesante e definitiva verso tutti coloro che criminano. E quindi chiamiamole ronde, chiamiamole pattuglie, io mi rifaccio sempre, storicamente e culturalmente, a questo problema della sicurezza, che era gravissima negli anni 20, quando arrivò il fascismo. Si raccontava che Borgo, Panico, Ponte, quei quartieri di Roma che già allora erano preoccupanti sotto il profilo della sicurezza, furono risolti con i famosi pattuglioni. I pattuglioni erano gruppi di 20, 30, pubblica sicurezza, carabinieri, milizia, allora i quali si tacciavano camminando a piedi le strade e fermavano tutti quelli che incontravano chiedendo di fornire i documenti. Non c'era nulla di così terribilmente offensivo per la libertà dei cittadini. Forse basterebbe ritornare ai pattuglioni, tutto là. E questo era Giuseppe Ciarrapico, senatore del Popolo delle Libertà. Spostiamoci in Francia adesso per parlare di lotta contro l'obesità. Sì, una lotta che cerca di combattere il governo anche attraverso la televisione. Infatti propone misure drastiche sugli spot pubblicitari, ma intanto naturalmente i canali televisivi, che temono di perdere miliardi di pubblicità, cercano di correre ai ripari. Sentiamo come. Potrebbero scomparire spot come questi, con bambini discoli ma simpatici, come quello che non offre i biscotti al direttore. Entrez, asseyez-vous du moulin. Oui, monsieur le directeur. Oh, des petits écoliers. Vous m'en donnez un? Dans vos rêves. Oh. O quello della bimba che non resiste alla mousse al cioccolato. Mon papa dit toujours ne doit pas manger de mousse au chocolat, va manger. O ancora quelli per le bibite zuccherate con musichette irresistibili. La Francia lotta contro l'obesità, in particolare quella infantile. In discussione in questi giorni all'Assemblée nationale la legge su ospedali, salute e territorio, che prevede rigorose limitazioni sugli spot di prodotti alimentari nei programmi per bambini. Un po' come succede già in Gran Bretagna, lì dal 1 gennaio sono state proibite nelle trasmissioni dedicate all'infanzia tutte le pubblicità a prodotti troppo dolci, salati o grassi. In Francia le televisioni tremano, l'industria alimentare investe in pubblicità 1,9 miliardi di euro ogni anno, il 76% in TV. E così i canali hanno cercato di anticipare la legge con un codice di autoregolamentazione, non limitazione agli spot, ma aumento dell'educazione alimentare. 460 ore di programmazione televisiva all'anno, una ventina di ore in ogni rete pubblica, la metà per quelle private, fino a 35 ore per i canali tematici per ragazzi. La legge però resta all'ordine del giorno. Basterà la carta stilata in extremis a salvare gli investimenti pubblicitari? Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. Il prodotto interno lordo italiano è sceso dell'1% nel 2008 e secondo l'Istat è il dato peggiore dal 1975. Il rapporto tra deficit e PIL, comunica l'Istituto di Statistica, si attesta al 2,7%. Sale la pressione fiscale che arriva al 42,8%. E sempre secondo l'Istat l'inflazione è rimasta stabile in febbraio. I prezzi al consumo crescono dell'1,6%, frenata per il prezzo della pasta, che fa segnare un meno 1,8% su base mensile, ma un più 15,5% su base annua. Torna a crescere la benzina, più 2,5% nell'ultimo mese. È ancora una giornata molto pesante per le borse europee e mondiali, come avete appena sentito. L'S&P MIB è arrivato a perdere e perde in questo momento circa il 4%, sotto di circa il 3% le altre borse europee, molto negativi tutti i bancari. L'ex primo ministro iracheno Tareq Aziz è stato assolto dall'accusa di aver ordinato il massacro di 42 persone nel 1992. Tre gerarchi iracheni sono stati condannati a morte, fra i quali Ali il chimico. Per quest'ultimo si tratta della terza condanna capitale. 100 milioni di dollari per la ricostruzione di Gaza li ha promessi il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi a Sharm el Sheikh, dove si è svolta la conferenza dei donatori. Sentiamo il premier. Sarà una gara, io credo, tra tutti i paesi europei per dare il contributo più elevato possibile e per far sì che i tempi di questa ricostruzione siano dei tempi veloci. Il presidente della Guinea-Bissau è stato ucciso questa mattina a colpi di arma da fuoco mentre cercava di fuggire dalla sua residenza. A togliergli la vita è stato un gruppo di militari per vendetta dopo l'uccisione del capo di Stato Maggiore. Marcia su Arcore di 800 trattori sono i produttori di latte organizzati da Confagricoltura e CIA, che protestano contro il decreto sulle quote latte. Favorirebbe, sostengono le associazioni, i produttori che hanno sforato i limiti di produzione. Si difende il ministro Zaia: non tollero bugie. Grameen Bank, l'istituto che pratica il microcredito senza garanzie, ideato nel 1977 dal premio Nobel Mohamed Yunus, sbarcherà anche in Italia. Lo ha annunciato lo stesso premio Nobel per la pace oggi a Milano. Sentiamolo dunque al microfono di Valentina Furlanetto. Crisis doesn't impact on microcredit because our microcredit is very local. La crisi non ha un vero impatto sul microcredito, perché il microcredito è molto locale, si basa sul territorio e sull'economia reale. La crisi ha origine invece nell'economia finanziaria, in un sistema finanziario che costruisce castelli in aria. Il microcredito non è toccato da tutto questo, perché sta coi piedi per terra, si occupa di piccoli problemi radicati nel territorio e nella realtà. Quando in Bangladesh noi diamo un prestito, questo prestito per lo più riguarda la costruzione di un pollaio, di un piccolo allevamento, di cose di questo genere, concrete, non si parla di carta. Quando si passa dall'economia reale a quella virtuale, nascono le speculazioni e da queste ha origine la crisi. So when you switch from the real economy to the papers and speculations, then the crisis comes. È vero che sta pensando di aprire una filiale in Italia della sua banca del microcredito? Ci può dare qualche particolare sul dove e quando? Stiamo lavorando a questo progetto. Posso dire che all'iniziativa partecipano, oltre alla Grameen Bank, anche Unicredit e l'Università di Bologna. Il progetto è in stato avanzato. Siamo alle fasi finali degli accordi. Abbiamo già fatto la stessa cosa negli Stati Uniti e i risultati sono stati eccellenti. Non abbiamo ancora deciso dove sarà la filiale, ma sui tempi vi posso dire che spero che il progetto parta entro quest'anno. Passiamo a parlare di sindacato e della questione degli scioperi. Si è svolta questa mattina una conferenza stampa del segretario generale della CGIL, Guglielmo Epifani. Sono vicine agitazioni per quanto riguarda i pensionati, però Vincenzo Miglietta si è parlato anche della proposta dell'assegno per i disoccupati. Sì, è così. Partiamo dalla difesa del potere d'acquisto delle pensioni e di un welfare maggiormente basato sull'equità sociale. Queste le motivazioni che porteranno il 5 marzo a Roma i pensionati aderenti alla CGIL. Almeno 20.000 iscritti alla SPI-CGIL saranno in Piazza Navona, ha annunciato Guglielmo Epifani, che ha puntato il dito contro il governo e a suo dire sull'incapacità di Palazzo Chigi di far fronte alla crisi economica in corso. I dati di oggi del prodotto interno lordo, ha commentato il leader della CGIL, dimostrano che il paese è fermo, la situazione è pesante, più il governo aspetta, ha detto Epifani, e più si peggiorano le condizioni dei lavoratori e dei pensionati. Epifani ha anche ribadito il suo sì alla proposta del Partito Democratico di un assegno di disoccupazione e ha riavanzato l'ipotesi di una tassazione temporanea supplementare sui redditi superiori ai 150.000 euro. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, noi ci spostiamo a Napoli perché questa mattina ci sono state una serie di manifestazioni contro la pedofilia con volantinaggio vicino alle scuole. In collegamento con Napoli, Enzo Danna. Sì, buongiorno, sono davanti all'istituto scolastico, la scuola elementare Van Vitelli, qui al Vomero, dove sono state organizzate alcune manifestazioni contro l'allarme pedofilia, un allarme che cresce a Napoli e provincia dopo i tanti, troppi casi di abusi e violenze nei confronti di minori. Ne ricordiamo soltanto gli ultimi, il 12enne stuprato in pieno centro a Napoli o il bambino rumeno violentato a Cicciano, la ragazza 14enne che ha subito una violenza di gruppo nel Vesuviano. Ebbene, c'è stata questa iniziativa organizzata dalla provincia di Napoli, alcuni volontari della Protezione Civile hanno distribuito volantini che recavano la scritta denuncia chi pensi possa essere un pedofilo. I genitori sono preoccupati, sono state numerose le telefonate giunte al numero verde della provincia, ma cosa chiedono in particolare le mamme e i genitori dei bambini? Lo abbiamo chiesto proprio all'assessore provinciale alla Protezione Civile Francesco Borrelli, sentiamo. Chiedono un controllo, ma non ronde o pistoleri o gente armata. Vogliono avere sicurezza e noi gli vogliamo garantire questo senza travalicare i nostri compiti, che sono semplicemente di supporto alle forze dell'ordine, che sono di sostegno nella denuncia da parte dei bambini e delle bambine o in alcuni casi da parte di personale qualificato che ci aiuta nel verificare atti terribili che spesso avvengono anche all'interno delle famiglie. Grazie Enzo Danna, collegato con noi da Napoli. Diamo il buongiorno invece a Giulia Crivelli. Buongiorno. Allora Giulia, oggi abbiamo poco tempo, quindi concentriamoci sulle cose che riguardano il nostro paese, che troviamo sui giornali internazionali. Iniziamo dall'Observer. Sì, un bellissimo reportage di Tom Kington, che è andato a Venezia per parlare con i veneziani. Il titolo della sua inchiesta è Venezia si sta svuotando. Ha fatto un calcolo, i numeri sono impressionanti, la popolazione di Venezia ha raggiunto il picco nel 1931, c'erano 164.000 veneziani, adesso siamo a 60.000, ma la cosa veramente impressionante è che a Venezia arrivano 20 milioni di turisti all'anno, diviso 365 fa circa 55.000 al giorno, e questa è solo una media. Quindi conclude Kington, nella maggior parte dei giorni ci sono più turisti che veneziani a Venezia. Questo è naturalmente, alla fine lui si chiede, forse questo non vorrà dire, non significa già una lenta morte dello spirito di Venezia, della sua anima, perché è chiaro che i turisti vanno e vengono, e se non c'è invece uno zoccolo duro di persone che ci vivono, di cittadini tutto l'anno, che ci vivono a Venezia, certo. Giulia, si parla di noi anche per quanto riguarda le sfilate, sì, della moda devo milanesi. Dire quasi con una certa invidia, nel senso che forse tutti si aspettavano che causa crisi economica questa fosse una tornata un po' scialba, e invece dalle Figaro alle Monde, persino Financial Times, una pagina intera per le sfilate di Milano, riconoscono che tutti gli stilisti hanno fatto un grandissimo sforzo creativo, da Gucci a Prada ieri sera, che ha stupito tutti come al solito, ma Armani, insomma c'è un'ammirazione, direi unanime, per questa capacità di reazione che ha la moda, ma è giusto che sia così, insomma la moda è creatività per eccellenza, quindi speriamo che almeno gli stilisti non voltino verso uno scenario più cupo, che cerchino di portarci almeno un po' di colore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. In primo piano il prodotto interno lordo italiano, sceso dell'1% nel 2008, secondo i dati che sono stati diffusi questa mattina dall'Istat. L'istituto di statistica spiega anche che è il dato peggiore dal 1975. Il rapporto tra deficit e PIL si attesta al 2,7%, sale la pressione fiscale che arriva al 42,8%. E sempre secondo l'Istat l'inflazione è rimasta stabile in febbraio all'1,6%, frenata sulla prezzo della pasta, che fa segnare un meno 1,8%, torna invece a crescere la benzina, più 2,5% appunto nell'ultimo mese. Ed è ancora una giornata pesante per le borse europee e mondiali. L'S&P MIB è arrivato a perdere il 4%, sotto di circa il 3% le altre borse europee, mentre questa mattina Tokyo aveva chiuso con un ribasso del 3,88%. L'ex primo ministro iracheno Tareq Aziz è stato assolto dall'accusa di aver ordinato un massacro di 42 persone nel 1992. Fra i gerarchi iracheni sono stati condannati a morte. Tre gerarchi iracheni sono stati condannati a morte, fra questi Ali il chimico. Per lui si tratta della terza condanna capitale. 100 milioni di dollari per la ricostruzione di Gaza. Li ha promessi il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, a Sharm el-Sheikh, dove si è svolta la conferenza dei donatori. Il presidente della Guinea-Bissau è stato ucciso a colpi di arma da fuoco mentre cercava di fuggire dalla sua residenza. Ucciderlo sono stati i militari per vendetta dopo l'uccisione del capo di Stato Maggiore. Marcia su Arcore di 800 trattori. Sono i produttori di latte organizzati da Confagricoltura e CIA che protestano contro il decreto sulle quote. Favorirebbe, sostengono le associazioni, i produttori che hanno sforato i limiti di produzione. Si difende il ministro Zaia, non tollero bugie. E allora parliamo di quanto sta accadendo nelle ultime ore nello stato africano della Guinea-Bissau. Il presidente Viera è stato ucciso questa mattina dai militari fedeli al capo di Stato Maggiore Tagmena Waye, una sorta di vendetta per la morte del generale avvenuta ieri sera in un attentato dinamitardo. Abbiamo sentito il racconto di Don Davide Sciocco, che si trova là, è un missionario e direttore di una radio in Guinea-Bissau, Radio Sol Mansi. Ieri sera c'è stato un attentato, un ordigno che è esploso dentro il quartiere generale dell'esercito, che ha provocato la morte del capo di Stato Maggiore, Tagma Nawai, e alcuni altri militari. La situazione ieri sera poi era calma, non c'erano spari, si poteva circolare, mentre invece questa mattina verso le 4 siamo stati svegliati da spari. Ce ne sono stati 3 o 4 forti e il resto erano armi leggere, mitra e altre armi leggere. Gli spari sono continuati fin verso le 5:30 e poi siamo potuti uscire di casa. Io sono venuto qui alla radio, la radio Sol Mansi, dove abbiamo iniziato a trasmettere alle 6 del mattino per calmare la popolazione. Poi si è saputo che il Presidente della Repubblica, Nino Viera, è stato ucciso, ormai la cosa è ufficiale, i nostri giornalisti hanno potuto vedere i corpi, e quindi in questo momento lo Stato Maggiore dell'Esercito ha dato una dichiarazione in cui annuncia la morte del capo di Stato Maggiore, Tagma Nawai, e dice che nonostante le misure prese alcune persone hanno attaccato la casa del presidente e hanno ucciso il presidente, però l'esercito si rimette all'autorità civile dello Stato, quindi non si può parlare in questo momento di colpo di Stato, ma sicuramente di un conflitto interno, perché da tempo si sapeva che tra il Presidente della Repubblica e il Capo dell'Esercito c'erano grossi contrasti, quindi probabilmente c'è stato uno scambio di attacchi. Però ecco, colpo di Stato in questo momento non si può parlare. E dalla Guinea-Bissau passiamo all'Arabia Saudita, perché da qui arriva la storia di una fatwa contro la televisione. E ce ne parla Dib Fateli. Le televisioni sono peggio degli spacciatori di droghe. È quanto stabilisce un nuovo editto islamico emesso da un autorevole ulema saudita. La fatwa chiede di processare per apostasia i due noti miliardari proprietari di TV satellitare arabe, i fratelli Ibrahim e Talal al-Walid. Il cinema, spiega l'editto, è uno strumento usato dagli ipocriti per realizzare il progetto di occidentalizzazione della società islamica, allontanandola così dalla Sharia di Allah. Al-Qudsi Arabi, che riporta la notizia, scrive che la nuova fatwa conferma la dura opposizione dei fondamentalisti islamici contro le riforme annunciate di recente dal re saudita. Adi Fatah Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Ora torniamo in Italia, perché la Camera dei Deputati ha inaugurato oggi un canale su YouTube. Sentiamo di cosa si tratta. Benvenuti, se siete naviganti di YouTube. Abbiamo aperto il sito, anche noi. Noi, la Camera dei Deputati. La parola d'ordine è trasparenza, lo strumento, il portale di condivisione di video più famoso al mondo. Il presidente della Camera Fini punta sulle nuove tecnologie per avvicinare i cittadini al palazzo. All'indirizzo www.youtube.com/Camera dei Deputati si potrà scoprire Montecitorio e la sua storia, curiosare tra le sue sale e saperne di più dei lavori in aula o in commissione. Sul sito anche le immagini dei momenti più importanti della vita recente della Camera, la visita della speaker del congresso americano Nancy Pelosi, la prima videochat del presidente Fini, ma anche un ponte con il passato, quando erano i cinegiornali a svelare per la prima volta agli italiani luoghi e volti della Repubblica che nasceva. Il 31 luglio la Costituente approva la ratifica del trattato di pace. Entra De Gasperi, chi parla è Nenni, polemizzando contro il governo, naturalmente. Paola Cavadi, GR24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed è tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia ed Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Peter Bescapè. Come sempre vi ricordiamo, se volete scriverci, l'indirizzo è extralarge@radio24.it. Se volete riascoltare questa puntata, ma anche sentire tanti contributi audio legati ai nostri GR, il sito è sempre www.radio24.it. Adesso la linea va ad A Tempo di Sport. Il prossimo giornale radio è alle 15. Extra Large torna domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Gianfranco Fabi.